Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Quel mattino d'aprile, 13/4/1944, storia di una rappresaglia, di e con Germano Rubbi. Rappresaglia. Azione dannosa contro un nemico in risposta ad una sua precedente azione dannosa. Questa è la definizione letteraria del termine rappresaglia trovata su uno dei tanti dizionari della lingua italiana. Ora però, attenzione. Dietro la tecnicità di questa definizione si nasconde tutta una serie di elementi che non sono assolutamente descrivibili in nessun dizionario, per quanto dettagliato esso possa essere. Mi riferisco a quegli elementi che hanno a che fare con le emozioni. Le emozioni che il termine rappresaglia suscita nei confronti di chi ci si imbatte magari leggendolo per caso da qualche parte o nei libri di scuola, non si avvicinano nemmeno lontanamente alle emozioni di chi ha subito in maniera più o meno diretta le conseguenze di una rappresaglia. O ne è stato semplice testimone, se vogliamo. E su questo penso che saremo tutti quanti d'accordo. Ora, fatta questa dovuta precisazione che vi invito a tenere a mente, entriamo nel vivo del racconto, dicendo che questa storia potrebbe essere simile, anzi lo sarà sicuramente, ad altre centinaia di storie del genere finite in una delle tante lapidi disseminate per l'Italia. Una di queste lapidi si trova a Calvi dell'Umbria, un paese che non è molto distante da qua, che è situato ai confini tra la regione del Lazio e dell'Umbria, appunto, e che si trova alle pendici di Monte San Pancrazio. Teniamolo bene a mente questo rapporto fra Calvi e Monte San Pancrazio, perché per la nostra storia sarà fondamentale. Come fondamentale è un'automobile, una Mercedes 190 modello 1939 color grigio perla, guidata da un soldato della Wehrmacht, il cui nome non è importante. È invece importante il nome del passeggero, il maggiore Wilke. Quanto manca ancora per Calvi? L'ultima indicazione diceva 7 chilometri, signore. E quando l'hai vista? Circa 2 chilometri fa. Ancora 5 chilometri su queste strade maledette piene di buche di fango. Non mi meraviglio che gli alleati non riescano a sfondare a Monte Cassino. Se trovano strade come questa, siamo sicuri che a Roma non ci arriveranno mai. È vero, signore, sono strade scomodissime. Nulla a che vedere con quelle nostre in Baviera, vero, Siegfried? Vero, signore. L'unica cosa che hanno di positivo queste strade è che sono divertenti. Divertenti, signore? E certo. Dove lo trovi in Baviera un contadino da investire? Guarda, guarda quello come cammina. Passagli vicino e suonagli. Gli facciamo prendere un colpo, dai. Hai visto che salto che ha fatto? La mattina del 10 aprile 1944, questa Mercedes percorre le strette curve della strada provinciale numero 18 diretta verso Calvi dell'Umbria. A bordo, come abbiamo visto, c'è il maggiore Werner Wilke, comandante del primo battaglione del 20° reggimento SS Polizei, che si sta recando a Santa Maria in Neve, che è una piccolissima frazione attaccata a Calvi. Dove lo aspetta? Un fantomatico capitano della Wehrmacht, il cui nome e le rispettive mansioni non sono scritte in nessun documento ufficiale. Questo puzza di servizi segreti. E che viene convenzionalmente chiamato il turista, che ha appuntamento con Wilke la mattina stessa. Viaggia da solo Wilke, senza scorta, anche per non dare nell'occhio, muoversi in attimo, raccogliere informazioni e tornare a Perugia a fare rapporto al suo superiore, al maggiore Hermann. Ma per capire bene quali sono i motivi che hanno condotto il nostro amato maggiore Wilke a Zonzo per i monti della zona, bisogna cercare di spiegare, seppur a grandi linee, qual è il contesto generale nel quale la vicenda che noi stiamo raccontando si svolge, perché è tutto quanto collegato. Allora, da un lato abbiamo l'8 settembre del 1943, l'armistizio, una data importantissima, perché a partire da quel momento le montagne di mezza Italia si riempiranno di profughi, di sbandati. E come mai? Pensate per un istante ai campi di concentramento, ce ne sono diversi in Italia, in cui sono rinchiusi i prigionieri di guerra, cioè i nemici dei nazifascisti che vengono catturati durante gli scontri. Americani, inglesi, polacchi, neozelandesi, australiani, canadesi, jugoslavi, ecco. Dopo l'8 settembre, da questi campi di concentramento, da queste carceri, fuggono tutti. I soldati italiani messi a guardia dei detenuti, i secondigi, fuggono perché dopo l'armistizio c'è chi se ne vuole tornare a casa e chi invece, eccoli, decide di andare a combattere proprio contro quegli stessi tedeschi, che a dire il vero non sono mai stati simpatici da alleati, figuriamoci adesso, insomma, ecco. Di conseguenza i prigionieri fuggono, perché non avendo più nessuno che li controlla, voi capite, no? Solo che per loro è un po' più difficile pensare di poter tornare a casa. Perché? Perché sono tutti quanti stranieri. E allora a questi poveracci non gli rimane altro da fare che continuare la loro lotta contro i tedeschi andando per monti. Ecco quindi che, come vedete, siamo già in grado di cogliere un elemento importante, quello dell'attività partigiana. L'iniziativa di far nascere le formazioni partigiane fu presa proprio dai militari, a cui si aggiunsero mano a mano gli sbandati, i rifugiati politici, gli antifascisti, le persone di dichiarato orientamento comunista. Pensate, il fatto curioso qual è? È che improvvisamente si ritrovano a combattere insieme, uniti per la stessa causa, i nemici di ieri, cioè gli ex prigionieri di guerra, insieme a quei soldati italiani che prima li controllavano e che dopo l'8 settembre rimangono fedeli al re. Secondo voi, i primi tempi fra di loro, come si saranno guardati? Come va? Eh? Visto? Ma non ti ricordi? Guardami meglio, non mi riconosci? Io sono uno di quelli a cui tu mettevi le catene tutte le sere prima di andare a dormire. Ah, eseguivi degli ordini, bravo. Ligio al dovere, bravo. Anche quando mi ha dato un calcio sulle costole perché ti chiedevo d'avere, eseguivi degli ordini. Due schiaffi ti darei. Facevi tanto il gradasso con quel fucile in mano in carcere, eh? Adesso vediamo. Vediamo come te la cavi con i tedeschi. Quelli non stanno mica legati con le catene come stavamo noi, eh? Quelli ti sparano addosso. Vediamo. Vediamo quanto sei coraggioso. Qua la mano. Dejan Mijatović. Ma il mio nome di battaglia è Veleno. Una di queste formazioni partigiane, forse la più attiva, la meglio organizzata della zona, fu la Brigata Garibaldina Antonio Gramsci, operante nello specifico nei territori montuosi compresi tra le province di Perugia, Terni e Rieti. Per ora lasciamolo da parte. Dall'altro lato invece abbiamo una situazione al fronte altrettanto importante. Davanti all'inarrestabile avanzata nel sud dell'Italia della Quinta Armata Americana, Hitler deve prendere una decisione che si rivelerà più difficile di quanto si possa immaginare. Fra tutte quante le strategie a lui sottoposte dai vari ufficiali, strateghi, eccetera, eccetera, opta per quella presentatagli dal feldmaresciallo Albert Kesselring, che consiste nel creare una serie di linee difensive lungo l'Italia allo scopo di bloccare l'avanzata alleata. Il 5 settembre del 1943 viene diramato l'ordine di realizzare a tempo di record una linea difensiva a sud di Roma che prenderà il nome di linea Gustav. Il suo scopo, l'abbiamo detto, è quello di bloccare l'avanzata alleata sotto Roma. A questo punto che cosa succede? La quinta armata americana avanza da sud velocemente travolgendo ogni ostacolo. Sicilia, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Basso Lazio, PAM! Nel Lazio gli alleati sbattono il muso contro il muro della linea Gustav voluto da Kesselring, allestito dove? Nella valle del Liri, in provincia di Frosinone. Un nome che è più non dirà niente. Ma se io dicessi Monte Cassino, qualcosa cambierebbe? Monte Cassino è il perno della linea Gustav. Ai comandi diretti dei reparti tedeschi dislocati nella valle del Liri c'è il generale F. Fridolin, Rudolf, Theodor von Sanger und Etterlin. Stavolta è andato bene perché a pronunciarlo velocemente si è rischio di darsi un mozzico sulla lingua, mica scherzo. Ma battute a parte, von Sanger non è uno stupido, perché con poche risorse a sua disposizione riesce a inchiodare gli anglo-americani nel carnaio di Monte Cassino per la lunghezza di 5 mesi, da gennaio fino a maggio, ma noi ci fermiamo a marzo, perché è marzo che ci interessa. Su Monte Sodate, dove è il quartier generale, Kesselring dorme male da diverse settimane. La linea Gustav regge, ma le notizie che riceve giornalmente dal fronte riguardo le perdite non sono rassicuranti. Qui bisogna rifornire continuamente la prima linea di uomini, armi e mezzi. Per fare questo è necessario mantenere un'ottima organizzazione dell'apparato logistico nel retrofronte, cioè tutto il territorio situato alle spalle della prima linea, che per quello che riguarda Monte Cassino comprende anche questa zona del centro Italia, dalla quale partono giornalmente intere colonne di camion tedesche dirette verso la valle dell'Iri. Partono la notte col buio e tornano la mattina. Notte, buio, partono, mattina, tornano, notte, buio, partono, mattina, notte, buio. Ma questa è anche la zona dove operano i partigiani della Brigata Gramsci. E insieme non ci stanno. Il braccio destro di Kesselring è il generale Siegfried Westphal, 40 anni, il più giovane generale in assoluto che la Wehrmacht avesse al fronte. Non si diventa generale a 40 anni per caso o per simpatia. Westphal è dotato di un acume, di una visione globale degli avvenimenti senza pari. Sembra che riuscisse ad intuire lo sviluppo delle situazioni con notevole anticipo rispetto alla stragrande maggioranza dei suoi colleghi. Bene, sarà proprio questo suo acume che lo porterà ad individuare un problema fino a quel momento marginale. Quale? Ma i partigiani, no? Fino a quel momento in realtà erano stati snobbati dai tedeschi. Infatti ne lasciano il compito della repressione ai fascisti, ai militari della RSI. La Wehrmacht ha altro da fare che correre appresso a questi rubagalline. Con i combattimenti bloccatisi sulla linea Gustav, la situazione cambia drasticamente. Westphal se ne rende conto immediatamente che a partire da quel momento queste formazioni partigiane acquistano un'importanza strategica fondamentale nelle azioni di sabotaggio, nelle quali sono micidiali. Questi conoscono bene il territorio, sanno dove nascondersi, colpiscono all'improvviso e si dissolvono nel buio. Un bel problema per la Wehrmacht, in un momento in cui è fondamentale mantenere sgombre le vie di comunicazione alle spalle della linea Gustav. Siamo nella primavera del 1944. Bisogna eliminare le bande partigiane che operano nell'Appennino centrale. Il comando dell'operazione viene affidato al colonnello Ludzig Schanz, che stabilisce il suo quartier generale a Perugia, dove c'è la sede del comando regionale militare tedesco per la regione dell'Umbria, che c'è un nome terribile, la Tausendachsen Militar Kommandantur, che non è un'agenzia di viaggio, attenzione, eh! A Perugia, per l'esattezza, è presente anche quel simpaticone del maggiore Hermann, il quale si mette direttamente alle dipendenze di Schatz, che non appena insediatosi allestisce una unità di tutto rispetto che prenderà il nome di gruppo di combattimento Schanz, una fantasia unica, ecco. Il grosso del lavoro lo svolgeranno due battaglioni. Il primo battaglione del 20° reggimento SS Polizei, comandato dal maggiore Dilke, che noi già conosciamo, e il secondo battaglione del 3° reggimento della divisione Brandenburg. Queste sono bestiacce. La divisione Brandenburg, infatti, era famosa in tutto il mondo per aver compiuto alcune fra le più spettacolari e rischiose operazioni nei punti caldi del fronte e dove il rischio partigiani era elevato. Il secondo battaglione, nello specifico, è stato allestito appositamente per la repressione contro i partigiani. È comandato dal maggiore Heinz Harald Pollmann ed è costituito da soldati scelti addestratissimi. Bene, a questo punto a Schanz, costituito il gruppo di combattimento, non rimane altro da fare che raccogliere dati. E l'intelligence tedesca, sotto questo punto di vista, si avvale di un servizio informazioni capillare, in cui a svolgere il ruolo da protagonisti sono i turisti. abbiamo già accennato precedentemente. Sono degli ufficiali dislocati in alcune ville delle retrovie col solo compito di socializzare con la gente al fine, magari, di ottenere delle informazioni in cambio di piccoli favori. Fatto sta che Shanz, prima di entrare in azione, è in possesso della Feindlage, la situazione del nemico. Il rapporto numero 2876/44, indirizzato a Kesselring, indica come punti strategici delle bande le zone di Norcia, Leonessa, Poggio Bustone, Rivo Dutri, Morro Reatino e la zona sud di Monte San Giovanni Sabino. Come obiettivo secondario viene invece indicata la zona compresa fra Monte Cosce e Monte San Pancrazio Calvi dell'Umbria. Tutto è pronto per l'azione. Il 29 marzo del 1944 scatta la prima fase dell'operazione. Il gruppo Shanz piomba a Leonessa improvvisamente, distruggendo totalmente le frazioni di Cepparo, Pace, Poggio Bustone, Albareto di Leonessa e Villa Pulcini, sedi, secondo Shanz, delle bande partigiane. Questi sono entrati subito duri, non hanno perso tempo. Tuttavia, nella stessa nota di qui sopra, viene riportato un dato importantissimo. I partigiani non sono stati agganciati. Ricordiamocelo bene, perché è fondamentale questa cosa per la nostra storia. I partigiani non sono stati agganciati. Ad ogni modo, la gente del posto ha paura. Il parroco di Leonessa, Don Pio Palla, riferisce di una dichiarazione fatta da un alto ufficiale tedesco, quasi probabilmente Shanz in persona, al commissario prefettizio di Leonessa, Tavani Ugo. Leonessa è salva, non verrà toccata! Infatti il 5 aprile il gruppo Shanz lascia Leonessa ed inizia il rastrellamento anche nelle montagne circostanti, ma i partigiani nemmeno l'ombra. Ed è anche normale, no? Questi conoscono bene il territorio, sanno dove nascondersi e poi godono di un servizio informazioni estremamente funzionale. Lo ammette lo stesso Shanz in uno dei suoi rapporti. Le notizie viaggiano veloci perché gli abitanti del posto fanno la passaparola. Gli abitanti del posto, cioè civili, aiuta partigiani? Il 7 aprile 1944, venerdì santo, nella frazione di San Michele sul Monte Tancia, quattro vecchi, sette donne e sette bambini, di età compresa fra i 2 e gli 11 anni, vengono uccisi. Lo stesso giorno il gruppo Shanz torna a Leonessa. Un tenente del 20° SS Polizei, il cui nome probabilmente è Wolf, si presenta con un foglio in mano, accompagnato da una donna del posto, Rosa Cesaretti. La tecnica messa in atto è la seguente. Tutti gli uomini del paese vengono radunati nella piazza principale. L'ufficiale tedesco inizia a leggere dei nomi che sono contenuti su questo foglio. È una lista, grazie alla quale vengono arrestati 22 civili sospettati di aver collaborato con i partigiani. Gli altri, quelli che non sono stati nominati, se ne possono pure tornare a casa. I testimoni riferiscono di una lite violenta fra il commissario prefettizio di Leonessa, Tavani Ugo, e un tenente del 20° SS Polizei. Insomma, si può sapere cosa da urlare? Ma come cosa da urlare? Le sembra normale quello che sta succedendo? Sì, siamo in guerra. Io spero che lei stia scherzando. No, non sto scherzando per niente, siamo in guerra. E nemmeno io sto scherzando per niente. Il colonnello Shanz in persona mi aveva dato la sua parola che Leonessa non sarebbe stata toccata. E chi la tocca? Lei ha forse visto soldati tedeschi danneggiare gli edifici. Ma che mi sta prendendo per il culo? Sono stati arrestati 22 civili senza nessuna motivazione. 22? Un po' pochini. Facciamo 23. Quello stesso giorno a Leonessa, 23 civili, fra cui un funzionario fascista e Don Concezio Chiaretti, un uomo di chiesa, verranno fucilati. Uniti a quelli della vicina frazione di Cumulata, porteranno il numero a 51. 51 morti solo nella zona di Leonessa. Il rapporto numero 2876 del 9 aprile riporta che alla fine della prima fase dell'operazione fra i banditi ci sono stati 296 morti. 296... 296 morti? Ma come? Ma non si era detto che i partigiani non erano stati agganciati? E qui si parla di 296 morti? Ma com'è possibile? Civili. Questi ammazzano vecchi, donne e bambini per far uscire i partigiani, lo scoperto dai partigiani rimangono nascosti. Nonostante questo, die Aktionen gegen die Banden es muss fortsetzen. L'azione contro le bande deve proseguire. Il 7 aprile, con la stessa velocità con la quale era entrata in azione, il gruppo Schanz si dissolve nel nulla. Proprio in questi giorni, infatti, giunge in Italia l'ordine scritto direttamente da Hitler di passare la direzione della repressione ai partigiani direttamente alle SS, con la supervisione del generale Jürgen von Kantz. Il colonnello Schanz viene messo da parte, ma il suo gruppo rimane attivo, passando alle dipendenze di quel simpaticone del maggiore Hermann, il quale, non appena insediatosi, il 9 aprile, convoca in una riunione gli ufficiali, dei comandanti, dei battaglioni, diciamo, impegnati nell'azione. Al termine di questo primo incontro preventivo, l'ordine è tassativo. Prima di entrare in azione, raccogliere dati riguardanti le zone di Monte Cosce e Monte San Pancrazio Calvi dell'Umbria. E finalmente arriviamo a noi, o meglio, al nostro amato maggiore Wilke con la sua fida Mercedes. La mattina del 10 aprile, l'abbiamo visto all'inizio, si sta recando a Calvi dell'Umbria, dove lo aspetta il turista, l'ufficiale tedesco, che raccoglie dati. I due si incontrano nella villa di Santa Maria in Neve e iniziano un colloquio, fatto uno scambio di informazioni, sono informazioni segrete, private, non può sentire nessuno. Infatti la villa del turista è vuota, ma proprio in quell'istante il caporale dell'aviazione Hans Schlegel si presenta dal turista con un dispaccio da consegnare. Il caporale Hans Schlegel sta a distanza proprio a Calvi dell'Umbria, dove c'è un piccolo distaccamento dell'aviazione militare tedesca. I reparti dell'aviazione tedesca sul fronte italiano, non avendo aerei a disposizione, erano impiegati nelle retrovie per svolgere mansioni, per così dire, logistiche. Quelli che stanno a Calvi dell'Umbria si occupano del carico dei camion diretti verso Monte Cassino. Il caporale Schlegel, nello specifico, è quello che consegna a mano, nelle zone non coperte da ponti radio, pacchi, plichi, dispacci, ordini scritti di secondaria importanza, al punto che viaggia da solo, con la motocicletta. La mattina del 7 aprile, cioè esattamente 3 giorni prima di trovarsi ora nella villa del turista, il caporale Schlegel aveva dovuto consegnare un plico. Dove? A Leonessa, Leonessa 7 aprile. Quella mattina, svolto il suo ruolo, decide di prendersi il caffè in uno dei bar della piazza del paese. E lì che cosa vede? Vede un funzionario fascista estremamente agitato, Taviani Ugo. Vede una donna del posto con indosso una giacca da militare tedesco, Cesaretti Rosa, indicare una persona che passa e gridare anche quello, prendete anche quello. Vede questa persona caricata sopra un camion, vede Tavani stesso essere condotto a spinte e calci all'interno di quel camion che si mette in moto se ne va e scompare dietro l'angolo. Allora Schlegel si gira e proprio in quell'istante vede la cosa più importante. Un tenente del 20° SS Polizei che sta a scherzare amabilmente con questa donna, con Rosa Cesaretti a fianco a lui. La raffica di mitragliatrice improvvisa fa sobbalzare Schlegel sulla sedia di paura. I tedeschi hanno in dotazione la mitragliatrice MG42, che ha una caratteristica precisa, il rumore. Questa è un'arma che vomita 1200 colpi al minuto, per questo il suo rumore è diverso da tutte le altre mitragliatrici che si conoscono. Nelle altre, che sparano più lentamente, si sentono i colpi partire in modo distinto, questa no, questa spara talmente veloce che il suo suono è simile a quello di una sega a disco che taglia un asse di legno. E non è un caso che venga chiamata la sega di Hitler, che non è un riferimento al passatempo preferito di Adolfo, attenzione, per chi la conosce bene il suo suono è inconfondibile. Schlegel la conosce perché l'ha usata nel 41 durante l'addestramento, ma pur conoscendola, sentirne il rumore improvviso e violento e associarlo a quelle 23 persone inermi lo fa stare male. E non capisce, Schlegel, come possa fare quel tenente a starsene lì a scherzare con una donna di fronte all'esecuzione di 23 persone inermi. Quel tenente che indossa la stessa divisa che indossa ora Wilke nella villa del turista. Schlegel, che riconosce le mostrine del XX e che conosce anche la triste fama che accompagna questo battaglione, ha riconosciuto anche le mostrine di Wilke lì nella villa del turista, il XX, qui. Qui a Calvi? Schlegel rimane basito, come 3 giorni prima Leonessa, al punto che il turista, spazientito dalla presenza di quel caporale porta ordini, lo affronta sgarbatamente. Caporale, cosa va a fissarmi? C'è forse qualche problema? Ah, non si sente bene. E che cosa c'è che non fa? Un capogiro, caspita, non si scherza con il capogiro, no? Poi lei con la moto deve fare particolare attenzione. Se cade in terra è un bel guaio, lo sa. No, no, non mi fa intenda, io non mi preoccupo per lei. Io mi preoccupo per la moto. Io non capisco, noi siamo qui a lavorare e lei se ne sta lì a guardarmi come un idiota? Cos'è? Non ha mai visto un ufficiale della Wehrmacht? Eh? Oppure le piaccio? Ha firmato il suo dispaccio? Bene, e allora se ne vada, cosa aspetta? La lancia? Schlegel esce dalla villa, prende la sua moto e se ne ritorna alla sua caserma che abita in Umbria. Renzo ha 14 anni, è un ragazzino sveglio, volenteroso, appunto che da tempo fa le pulizie nella caserma tedesca di Calvi in cambio di pasti con qualche spicciolo. È diventato la mascotte dei militari, i quali spesso scherzano con lui. Ha legato in particolar modo con un caporale, il cui nome è Hans Schlegel. È per questo che quella mattina, vedendo il suo amico rientrare, capisce immediatamente che c'è qualcosa che non va. Il caporale, che di solito scherza, è giocoso con lui, stamattina non ha voglia di scherzare, ha un'espressione seria, tirata, gli si avvicina e con il suo italiano stentato gli rivela una sorta di profezia che Renzo lì per lì non capisce, ma che si verificherà puntualmente in tutta la sua tragicità. Renzo, Calvi, cose brutte, brutte, brutte, 3 volte brutte, gli dicevo. Wilke, nel frattempo, ha terminato il suo colloquio amichevole con il turista, soddisfatto del proprio lavoro e consapevole di averlo svolto bene. Ma ora deve tornare a Perugia a sistemare tutto quanto il materiale, dato che deve essere pronto tutto quanto per le ore 8 della mattina successiva, ora in cui il maggiore Hermann ha convocato in una riunione i 2 comandanti dei battaglioni impegnati nell'azione, lo stesso Wilke e il maggiore Pohlmann. È l'11 aprile 1944, sono le ore 08:00. Silenzio! Parla Hermann! Signori, comodico. Dunque, senza tanti preamboli, vediamo cosa abbiamo qui. Ecco, allora, nella zona compresa fra Monte Cosce e Monte San Pancrazio risulterebbe la presenza di circa 300-350 banditi. Italiani, slavi, disertori, inglesi, insomma c'è un po' di tutto. Dato che il territorio presenta caratteristiche di alta montagna, con boschi, dirupi e caverne non facilmente individuabili, io consiglierei un rastrellamento approfondito. Bene, se siamo tutti d'accordo io direi di procedere in questa maniera. Ho circoscritto il nostro raggio d'azione, lo dividiamo in 2 zone. La prima a nord, che parte da San Lorenzo e passa per Poggio, Sant'Urbano, Masciano e Confini, in cui avrei pensato di mandare Pohlmann col battaglione Brandenburg. Nome in codice è Berta, di quella zona te ne occupi tu, va bene? Della zona sud invece se ne occuperà Wilke con il 20° polizzai, nome in codice Adolf. Allora, vediamo qui che cosa c'è. Vagone, gruppo di americani. Parti da vagone. A quanto pare c'è un gruppo di ex prigionieri americani che si diverte a giocare a nascondino con noi. Dalle informazioni che abbiamo sembra siano nascosti in un dormitorio. Fagli passare la voglia di giocare, eh? Signori, facciamogli sentire la pressione. Occupiamo il territorio rapidi, veloci. E poi stringete il vostro raggio d'azione sul Monte San Pancrazio, dove confluirete entrambi, lasciando i banditi chiusi dentro una sacca. Una volta che li avrete chiusi al centro, fine dei giochi. Nome dell'operazione Osterai. Nome dell'operazione Osterai, uova di Pasqua. Simpaticone sto Maggiore Herman, vero? Ma anche dell'ironia, quasi ci avesse fatto un regalo. Poi però, prima della fine della riunione, ha ancora qualcosa da dire a Wilke. Signori, ci sono domande? Bene, inizio delle operazioni ore 02 e 00. Tenetemi costantemente informato e buon lavoro. Ah, Wilke! Prima di andare, Calvi dell'Umbria. Il Maggiore Herman delimita sulla cartina quelle che sono le zone e le frazioni che devono essere rastrellate. La sua attenzione in un primo momento si sofferma sul vagone, dove alcuni delatori hanno indicato la presenza di 8 soldati americani che sono fuggiti dai campi di concentramento. Nello specifico viene indicato un promitorio che sta sul crinale sud di Monte Cosce. Poi, prima della fine della riunione, si rivolge a Wilke. Wilke, prima di andare, Calvi dell'Umbria, gli dice, ed esegue sulla cartina un segno semicircolare vicino a Calvi, vicino alla città, scrivendoci a fianco una sigla che ancora oggi nessuno è riuscito a decifrare. FW. Per ultimo, come obiettivo finale dell'accerchiamento, verrà indicato Monte San Pancrazio, dove a quanto sembra risulterebbe la presenza di circa 300-400 partigiani. Ma che cazzo stai a dire? Non ci sta nessun partigiano sul Monte San Pancrazio, sono tutte chiacchiere! Qui si apre una questione infinita. Partigiani sì, partigiani no. A Calvi sono sicuri. No! A Basciano, sull'altro versante della montagna, sono altrettanto sicuri? Sì. Calvi no, Basciano sì, al punto che gli abitanti delle due località continueranno le loro discussioni pure dopo la fine della guerra. Non ci stanno i partigiani sul Monte della Pata, ci sono un po' capisti, ma che da lì vanno a malisti pure i bigogliani. Ma quello è cercato, perché non lo sapete, insomma, comunque. Discussioni a parte, gente nascosta sulla montagna ce n'è. Ivo ha 16 anni, vive all'altro canto, un altro paesino che sta nell'orbita di Monte San Pancrazio. Di lavoro fa il burattiere. Una mattina di ottobre del 1943 si sta recando, sapete dov'è? Proprio qui a Narni, per fare alcune commissioni. Quando lungo la strada incontra una colonna di repubblichini comandata dal tenente Serafini, che gli ordina di girare il muro e tornarsene a casa. Ivo non capisce, forse per il rumore dei camion, e come reazione si becca uno schiaffo sulla faccia che lo fa cadere dal muro. Uno sganassone del genere a 16 anni fa male. Fa ancora più male se non si capisce il motivo per cui lo si è preso. Ivo esegue l'ordine, gira il muro e se ne torna d'altro canto piangendo di rabbia e imprecando contro tutti i porci fascisti sulla terra per quello schiaffo preso immeritatamente. Un amico di suo padre, Armando Di Clemente, lo sente arrivare imprecando e gli va incontro di corsa. Sta zitto, stupido! Se te vede qua non culo tu domani, passi guai! Vuoi veramente vendicarti? Aspetta! Infatti di lì a poco, a Ivo, gli verrà assegnato il primo di una lunga serie di incarichi. Consegnare cibo, armi e munizioni. Dove? Sul Monte San Pancrazio. Da quel momento, Ivo, a 16 anni, inizierà a rischiare la vita quotidianamente per portare cibo, armi e munizioni sul Monte San Pancrazio. Fermi, lo ripeto, da quel momento a 16 anni, Ivo inizierà a rischiare la vita quotidianamente. Ivo sta qui, io gli farei un applauso. In quel periodo c'è più gente nascosta sul Monte San Pancrazio che nel resto di tutti i paesi circostanti. È per questo che Herman ordina a due battaglioni di terminare l'azione sul Monte San Pancrazio a Tenaglia. È il 12 aprile 1944, sono le ore 02.00 del mattino, tutto è pronto. Il Brandenburgo entra in azione secondo il suo stile, di slancio, per non dare modo ai partigiani di organizzarsi, l'abbiamo già detto. Questi comandati da Pollmann sono guerrieri addestrati al combattimento. Non gliene frega nulla a Pollmann dei civili. Lui è il comandante del secondo battaglione del terzo reggimento della divisione Brandenburg e non può perdere tempo con vecchi e bambini. Hanno annusato il partigiano e ora lo vogliono. ma per averlo debbono salire sulla vetta del Monte San Pancrazio. E così fanno, si lanciano come animali assetati di sangue sul versante nord. A Vilke invece spetta il rastrellamento della zona sud della montagna. Opera in maniera diversa adesso i due colleghi, da Polman, scusate. Infatti ha dato precise istruzioni ai suoi due ufficiali di riferimento, al capitano Wagner e al tenente Laig, di non puntare sulla velocità di esecuzione come fa il Brandenburgo, ma di eseguire un rastrellamento capillare, casa per casa. Ma, prima di tutto, bisogna passare a Vacone, nel romitorio di Vacone, dove a quanto sembra sarebbe presente 8 soldati americani che si sono nascosti e sono usciti dai campi di concentramento. Ad incaricarsi dell'operazione è il capitano Wagner in prima persona. Wagner arriva con un drappello di uomini davanti al romitorio di Vacone, sfonda il portone ed entra dentro l'edificio, inizia a cercare dappertutto, stanza per stanza, nelle cucine, nelle camere, nei ripostigli, nei bagni, nelle cantine, dappertutto, ma gli americani non ci sono. Che è? Che hai detto? Non ci sono. Ma come non ci sono? Ma il maggiore Herman aveva detto che l'avremmo trovati qui. Oh, ma guarda che sta americani, ma poi una volta che rispetti in un appuntamento, sa? Dopo uno dice che gli spara. Grazie. Fuma di rabbia Wagner. E allora che cosa fa? Piomba sul paese più vicino col preciso intento di raccogliere informazioni. Un abitante di Vacone indica ai tedeschi i nomi di due persone che hanno a che fare con i partigiani. Sono il ragionier Baldoni Amilcare e l'allievo sottufficiale della Guardia di Finanza Beniamino Minicucci. Baldoni è a letto quella mattina, non dimentichiamoci che mattina presto saranno circa le 2-3 quarti, 3. Non ha mai avuto a che fare con i partigiani, ma il suo nome è negli uffici chiamati UPI, Uffici Provinciali Investigativi della Polizia Fascista, perché fino a un paio di mesi prima di trasferirsi a Vacone ha collaborato con il Partito Socialista Francese di Tolosa. È per questo che, sentendo parlare tedesco lungo le strette vie del paese a quell'ora della mattina, capisce immediatamente che stanno lì per lui e non tenta nemmeno di fuggire. No, ma io non scappo. Io non scappo, non me ne frega niente. Non me ne frega niente, ma ammazzassero pure. Tanto che senso c'ha, eh? Ma tanto che senso c'ha continuare a vivere in un mondo dove non posso nemmeno esprimere la mia idea? Anzi, lo sai che faccio? Io apro pure il portone, guarda un po'. Buongiorno, Baldoni, ragioniere Amilcare, socialista. Anche Minicucci è a letto. È a letto con la moglie che sta terminando l'ottavo mese di gravidanza. Quando sente gli spari, e qui commette due errori. Il primo errore, anzi, probabilmente l'ha già commesso l'8 settembre del 1943, portando con sé a casa la divisa da finanziere e la pistola d'ordinanza, che se trovate dai tedeschi in un periodo del genere equivalgono ad una condanna a morte sicura, e quindi pensa di fuggire. E qui commette il secondo errore, che gli sarà fatale. Infatti non si darà per campi dove sarebbe introvabile, ma pensa di rimanere vicino alla moglie e si nasconde in un forno che sta nella viuzza di fronte, sdraiandosi all'interno del forno e chiudendo dietro di sé la botola. Ma in quella maledetta primavera del 1944, dietro le persiane chiuse ci sono occhi che vedono, orecchie che ascoltano e soprattutto bocche che parlano. I tedeschi andranno dritti lì al forno. Perché ci fai nascosto lì dentro? Ma dai, vieni fuori da quel forno, guarda questo. Lui, e l'abbiamo dovuto ammazzare per forza. Era un criminale, socialista. E poi non parlava. Non come te, vero? Tu lo sai dove stanno gli americani, non è così? Tu non vuoi fare la fine del tuo amico, giusto? E allora dai, dicelo, che ti lasciamo libero, no? Grazie. Dai, su. Non facci perdere tempo, poi che c'è un mucchio di cose da fare, so. Dimmi dove stanno. Dai, non fare l'eroe, non serve a nessuno un eroe, forza! Dimmi dove stanno gli americani, dai! Date le schiaffi per fuoco, dai. Ecco, guarda che fatto. Tutto sporco di sangue, guarda. Forza, avanti, parla, dimmi dove si sono nascosti. Gli americani, sì, gli americani, dove stanno? Forza! Giovanni! Ti ho detto di parlare! Parla! E hai detto? Viva l'Italia! She's in tot. She's in tot. Fatelo fuori. Risultato? Due persone verranno uccise a Bacone, ma né gli americani né i partigiani verranno trovati. Ora però in tutto questo marasma manca un personaggio. Dunque, Pullman sta salendo verso la vetta del Monte San Pancrazio col Brandenburgo. Wagner e Laig hanno appena ucciso due persone a Bacone. Ma Wilke? Di Wilke non si hanno notizie fino alle 3:30 del mattino circa, quando arriva a Calvi dell'Umbria col grosso del battaglione ed inizia anche lì il rastrellamento casa per casa, prendendo tutti gli uomini di età superiore ai 12 anni. Erano le 3 passate, quando sento il portone d'ingresso cedere con uno schianto. Mi ricordo bene che mamma non fa nemmeno a tempo a scendere dal letto che due soldati tedeschi, grandi, con le bombe infilate nei cinturoni, entrano in camera. Accanto a me e a mamma, nel posto lasciato vuoto da papà, deportato in Germania, c'è mio fratello Vittorio. Mi ricordo bene che uno di questi due soldati chiede a mamma quanti anni ha Vittorio. Lei gli dice 11 anni. Uno dei due tira una bestemmia in italiano ed esce dalla stanza. L'altro, mi ricordo bene, sì, va verso Vittorio e gli avvicina due dita agli occhi in questo modo, dando una frase incomprensibile. Poi solleva la sottana a mamma, gli guarda le cosce, si mette a ridere ed esce dalla stanza. Sì, mi ricordo bene anche un altro particolare. Questi due soldati non erano come quelli buoni che stavano a Calvi, erano vestiti in maniera diversa e poi sì, ricordo bene. Questi erano cattivi. Su 250 persone vengono radunate quella mattina a Calvi, di fronte a Wilke che sta amichevolmente parlando con un colonnello fascista, gli porge un foglio e se ne va. La tecnica è la solita, quella messa in atto qualche giorno prima a Leonessa, solo che lì era il tenente Wolf che conduceva le danze. Qui a Calvi dell'Umbria è Wilke in prima persona, perché ha ricevuto l'ordine espressamente dal maggiore Herman. Wilke, prima di andare, Calvi dell'Umbria, gli ha detto, con quella FW segnata sulla cartina a fianco del Calvi, di cui ancora nessuno sa l'esatto significato. FW, ma che diavolo vorrà significare? FW, Wilke W, sta conducendo l'operazione, ma quella F davanti, che cosa può essere? Foyer, fuoco, no, Calvi non verrà data alle fiamme. Find Lage, situazione del nemico, nemmeno. Sarebbe una frase che non avrebbe senso. E allora, ammesso che quella W è quella di Wilke, la F davanti. Ma che significa? FW. Wilke in questo momento sta parlando con un colonnello fascista che gli porge un foglio e se ne va. Qual è il nome di questo colonnello? Faustini. Il colonnello Faustini Giunio è originario di Spoleto, comanda il presidio repubblicano di Terni. È stato trasferito a Calvi da qualche mese per motivi di sicurezza in seguito ai continui bombardamenti sulla città dell'acciaio da parte degli angloamericani. Di lui la gente si ricorda poco, è un tipo molto alto, severo, taciturno, altezzoso, al punto che va poco d'accordo persino col podestà di Calvi Serrano Simoncelli. Chi rimane invece più impresso nella memoria gli abitanti di Calvi è il figlio di Faustini, Vittorio, 30 anni, sergente paracadutista, filo nazista, sempre vestito con la classica divisa da gerarca, stivaloni neri, pantaloni larghi, cinturone, fascia e fez. Parla bene tedesco, per questo cerca di socializzare con i militari che stanno lì a Calvi dell'Umbria e all'aviazione, i quali, a dire il vero, non è che lo sopportano tanto, lo tengono a distanza perché lo considerano un po' esaltato. Ecco, Gli abitanti di Calvi lo ricordano bene, lo descrivono solo con una parola: cattivo. Si merita questo nomignolo una mattina quando, passando davanti ai giardinetti di Calvi, vede alcuni bambini che stanno giocando con le biglie di vetro e, per dimostrare il proprio sprezzo del pericolo e abilità, si diverte ad estrarre la pistola e a sparare a quelle biglie di vetro fra le mani dei ragazzini, provocandone la fuga terrorizzata. Ora, i termini dialettali e neologismi nascono sempre per caso, anzi non nascono per caso, hanno sempre un preciso significato. Questo che cosa vuol dire? Che Vittorio frantumava le biglie agli altri bambini, in altre parole, gli rompeva le palle. Suo padre no, severo, altezzoso, parla poco, come quella mattina quando porge una lista a Wilke e se ne va. Su quella lista sono scritti dei nomi che Wilke inizia a leggere: Guglielmi Adolfo, Guglielmi Emilio, Guglielmi Gino, Guglielmi Ernesto, Guglielmi Genesio, Montegaggi Liberato, Salvati Domenico, Ranuzzi Mario. Mentre queste persone vengono arrestate e condotte nella caserma dei carabinieri, gli altri cittadini, quelli che non sono stati condotti, che stanno tornando a casa, iniziano a chiedersi immediatamente da dove sia spuntata quella lista e soprattutto perché ci siano finite queste persone. Persone tranquille, non hanno mai nulla a che fare con i partigiani a Calvi non ci stanno. Bisogna sapere una cosa, che le liste che venivano in possesso degli ufficiali tedeschi erano il frutto del lavoro incrociato fra i servizi segreti locali e, triste riconoscerlo, le spiate dei delatori. Il caso più eclatante di cui si abbia notizia in tutta Italia, sapete qual è? È proprio quello di Leonessa, dove era una donna del posto, l'abbiamo già visto, Rosa Cesaretti, che indicava apertamente ad un tenente quali erano le persone da far arrestare e far fucilare. Sarete contenti adesso, vero? La mia famiglia mi ha rinnegata, mio fratello mi ha cacciato di casa e questo grazie a voi. Ogni volta che lo incontravate il paese era sempre la stessa storia. Quella puttana di tua sorella, quella puttana di tua sorella. Sì, è vero, sono una puttana e allora? Voi che ora gridate tanto contro di me, che vi indignate al solo vedermi, non avete lasciato anche voi i vostri sporchi soldi sul mio comodino? Rosina, fatti toccare. Rosina, fatti abbracciare. Ah, non è vero, eh? Dante? Sì, sì, dico proprio a te. Sì, te. Perché non dici alla tua amata signora dove eri giovedì scorso alle 5 del pomeriggio? E tu, Luigi? Tu, no, fatti vedere bene, non ti nascondere, fatti vedere. In quest'ultimo mese, quante volte hai detto a tua moglie che avevi fatto tardi per il lavoro? Ah, sono solo una matta, eh? Beh, ora ve lo fa vedere questa matta, quella che vi combina! Tenente, quello là, Dante, prendete quello, anche lui collabora con i partigiani. E anche quello, Luigi, lo stagnino, sì, è uno di loro. Poi, vediamo un po'. Lui. Come faccio a sapere che ha a che fare con i partigiani? Lo conosco. È mio fratello. Questo per dire che si finiva davanti ai plotoni di esecuzione per antipatie, invidie e vecchi rancori. I partigiani a Calvi non ci stanno, ma quella mattina 8 persone vengono arrestate e vengono condotte nella caserma dei carabinieri. Alle 7:30 circa, Wilke, da Calvi dell'Umbria, si sposta, fa la sua apparizione a Santa Maria in Neve. Questa è la piccola frazione che sta attaccata a Calvi dell'Umbria, dove c'è il turista, l'ufficiale che raccoglie informazioni. Quindi, che cosa spera di trovarci, Wilke? partigiani proprio lì, magari che fanno picnic nel giardino della villa. No, difatti non ne trova nemmeno uno. Allora che cosa è andato a fare Vilke a Santa Maria e Neve? C'è andato ed incendia due case. E che cosa vuoi che faccia il capofamiglia che ha compiuto una vita di sacrifici per costruirsela la casa di fronte a chi gliela incendia? È normale che tenta di impedirglielo. Sono le 7:15 del 12 aprile. Pettorossi Angelo e Pierice Pacifico muoiono così, tentando di impedire ai tedeschi di incendiare le proprie case. La gente del posto comincia ad avvertire che sta succedendo qualcosa di strano, il rumore degli spari, le grida, la puzza di bruciato. Vincenzo, a 16 anni, è sceso per strada, come hanno fatto più o meno tutti, per vedere che cosa sta succedendo. Quando all'improvviso sente alcune donne del cascinale di fronte mettersi a gridare: «I tedeschi, arrivano i tedeschi!» ed inizia a correre a perdifiato nel vigneto che ha dietro casa. Scappa senza motivo, per paura. Sarà proprio la paura che lo salverà. Infatti arresteranno suo padre, Fabrizio. Insieme a lui verranno arrestate anche altre due persone, Sernicolo Ernesto e Calofei Lorenzo, perché, sarà scritto sui documenti, hanno aiutato i partigiani. Non dite di no, non dite di no, perché li abbiamo trovati in casa anche le munizioni. Io non capisco, forse sono stupido, però ammesso che io sia un fiancheggiatore dei partigiani, ma ti pare normale a te che nascondi in casa le munizioni? E poi magari fuori espongo pure un bel cartello: ristorante dal partigiano, brigata Gramsci, ingresso gratuito? No. E allora perché? Perché questo atteggiamento da parte dei tedeschi rientrava nella strategia voluta da Albert Kesselring, che consisteva nel colpire preventivamente la popolazione al fine di dissuadere gli abitanti dal collaborare con i partigiani. Ecco perché Vilke è passato a Santa Maria Neve. Alle 8 circa, i tre arrestati, Carofei, Fabri e Sernicola, da Santa Maria vengono condotti verso Calvi per essere interrogati con calma. Quando lungo la strada, esattamente in prossimità della grottaccia, a poche centinaia di metri dal centro di Calvi, Carofei Lorenzo, forse in un attimo di, non lo so, folle lucidità potremmo chiamarlo, capisce perfettamente a cosa sta andando incontro. Si mette seduto ed incrocia le braccia al petto. Io da qui non mi muovo. No, dico, ma sei scemo? Fabri e Sernicola non credono alle proprie orecchie. Lorenzo, altro, che questi non scherzano. Facessero quello che gli pare, mi ho detto che da qui non mi muovo. Non ero fuori morto, per carità. Non è vero, devo dire che non mi muovo. Ma perché fai così? Perché preferisco quello che sia a casa, che si è ammazzato di Satone. Non è scherzo, scherzo, fa sempre così. Alzati, qua ci fai ammazzare tutti quanti. Mettete via i fucili, ci parlo io adesso, sì. Lorenzo, ti giuro che se adesso non te alzi e vi ho schiaffio, va bene? Forza! E non te lo fai vedere un'altra volta. Lorenzo! Ma che avete fatto? E lì rimarrà Lorenzo Carofei, ucciso di fronte alla disperazione dei suoi due amici, che da quel momento avranno chiaro qual è il loro destino, che per ora è quello di essere condotti nella caserma dei carabinieri. Probabilmente nella caserma ci finiranno anche altre due persone, Lieto Antonio e Landaio Lindo. Diciamo probabilmente perché queste due persone sono forestiere, non sono del posto, non conosce nessuno. E poi perché il nome di Lieto, oltre a comparire nella lapide che sta a Calvi dell'Umbria, compare anche su un'altra lapide, quella che sta a quota 821 sulla vetta del Monte San Pancrazio, dove Polman col Brandenburgo arriva verso le 5 di mattina. I partigiani vedono arrivare i primi tedeschi che gli corrono incontro sparando come i pazzi e capiscono immediatamente che quella non è una scampagnata di orsoline, e quindi che fanno? Fuggono. Chi conosce bene la montagna, perché magari sta qui da tempo o è nel posto, sa dove deve andare. Si deve tuffare nella boscaglia che dà in direzione di Lugnola, tra la quale ci sono le grotte di Camorco, un nascondiglio introvabile per qualsiasi tedesco. E così fanno, cominciano a correre in mezzo alla vegetazione diretti verso la salvezza. Gli altri, quelli che non conoscono bene la montagna, rimangono intrappolati sulla Pian Ventatoia, quota 821, e in un primo momento tentano di respingere l'assalto dei tedeschi, ma non è possibile. E allora che fai? Scappi anche tu, ma dove ti porta l'istinto però, e non la conoscenza del territorio, ovvero in direzione opposta rispetto all'avanzata dei tedeschi, che corrisponde al prato che scende lentamente da cui poi si risale per andare verso Montecosce. Lì è pulito per terra, non ci stanno pietre, rami, sterpi, non c'è niente, e poi è leggera discesa. Ma lo sai che velocità che prendo su quel prato correndo? E quando mi riacchiappano i tedeschi? Solo che quel prato non ha ripari e te lo grida dietro chi conosce bene la montagna. Ti grida che non devi andare da quella parte perché è pericoloso, ma tu non lo senti perché corri. Il rapporto numero 2959 del 12 aprile firmato dal maggiore Herman dice testualmente: dopo un breve scontro a fuoco, a quota 821, 7 partigiani sono stati uccisi. Il resto della giornata scorre lentamente a caldi. Gli arrestati sono lì, nella caserma dei carabinieri, posti sotto interrogatorio da parte dei tedeschi, dove a fare da interprete c'è niente meno che Vittorio Faustini, che invece di andare in giro a spaventare i ragazzini con la pistola, adesso se ne sta lì ad esibire il suo perfetto italo-tedesco. Mentre invece suo padre, Faustini Giugno, il colonnello, se ne sta a casa a discutere animatamente con il podestà di Calvi, Serrano Simoncelli. Ma che hai con mia? Tu non ti impicciare di questioni che non ti riguardano. Ma non mi riguardano. Questi arrivano, ma sono 3 innocenti. Tu ci metti pure il carico, mi arrestano altri 10 e io non resto zitto. Ma dove che parte stai, eh? Questi sono collaboratori dei partigiani. Sì, facciamo la finita una volta per tutte questa storia dei partigiani, eh? I partigiani, piazza in colpa a tutti, stanno su, sulla montagna. Se questi 4 imbecilli che parlano tedesco non riescono a trovarli, perché devono venire a ammazzare la gente qui a casa? Ma te l'ho già detto, questi aiutano i partigiani, te lo vuoi mettere in testa? Ma tu che ne sai? Come fai a parlare così, tu che sei di Spoleto, neanche li conosci, quelli che hai fatto arrestare? Io li conosco da una vita e ti posso assicurare che non hanno niente a che fare con i partigiani. Senti, mio figlio in persona... Ma se tu chiedo quando staccarmi non fa altro che andare in giro a rompere le palle con la pistola! Hai saputo cosa è successo all'inizio? Sì che l'ho saputo. Proprio un bel lavoro hanno fatto, bravo. Non è lo stesso battaglione che adesso sta qui. Il 20° sì. Sai che hanno fucilato anche il commissario prefettizio Pavani? Un camerata come me. Come te. E allora? E allora se dici un'altra parola giuro e ti faccio con la stessa fine. Nonostante gli sforzi del podestà non ci sarà nulla da fare. Gli arrestati rimangono lì dove sono, sotto interrogatorio. La giornata del 12 si conclude col maggiore Herman che da Perugia compila l'ennesimo rapporto, nel quale c'è scritto che il grosso dell'organizzazione partigiana è ancora sul Monte San Pancrazio. Per questo sarà previsto un rastrellamento anche per il giorno successivo e finalmente arriviamo al 13 aprile 1944, giovedì. I tedeschi compiono la stessa azione del giorno precedente, con Polman che sale nuovamente sulla vetta del Monte San Pancrazio, convinto di trovare i partigiani, ma oggi rimarrà deluso. Nemmeno uno. Vilke stavolta invece inizierà il rastrellamento da Monte Buono. Perché? Perché un delatore del posto ha indicato ai tedeschi la presenza di 8 soldati americani che non erano stati trovati il giorno precedente. Avete sbagliato, gli dice il delatore. Il rovitorio nel quale stanno nascosti gli americani non è quello di Vacone, ma è questo di Montebuono, il monastero di San Benedetto. Li ho visti io con questi occhi e sarà lì che Vilke sorprenderà gli 8 americani, che non si aspettano l'arrivo dei tedeschi, perché fino a quel momento gli abitanti del posto gli hanno garantito copertura, tutti, ma ne è bastato solo uno. Charles Dye, Paul Valdes, Clarence Moody, Thomas Wodos, Ben Espinosa, Robert Camatem, Robert Koch e George Kerr, uccisi sul posto e lasciati lì, nudi, con l'ordine di non seppellirli. Appena ucciso gli 8 americani, Vilke da Montebuono si sposta verso Calvi dell'Umbria, da cui poi dovrà salire verso la vetta del Monte San Pancrazio per accerchiare eventuali banditi in fuga di fronte all'avanzata di Polman sull'altro versante della montagna. Tuttavia, le notizie che giungono via radio dal suo collega non sono buone. Nessun partigiano è stato trovato. L'operazione, militarmente parlando, in questa zona è stata un fiasco totale. Ma che figura ci fa Vilke di fronte ai suoi superiori? Qui bisogna dimostrare che anche in questo caso l'azione ha avuto successo. Bisogna infliggere al nemico il più alto numero possibile di perdite, ovvero uccidere i partigiani. Se ho capito, ma come fai? Ma seppure Polman, che c'ha due cose così, sul San Pancrazio oggi non ha trovato nemmeno uno. È vero. Polman no. Ma noi sì. Ne abbiamo 12 qui a Calvi. Sono le 5:15 di mattina, circa, quando Renzo, il ragazzino che fa le pulizie nella caserma dell'aviazione, sta uscendo per strada insieme a sua zia, perché devono consegnare due pacchi alla corriera che parte da Piazza Vittorio Emanuele verso le 6, diretta verso Roma. Quando prende il portone, si trova davanti due soldati tedeschi e gli indicano di andarsene, perché non si può stare lì in quel momento. Zia di Renzo cerca di spiegare le proprie ragioni, ma proprio in quel momento Renzo la sente. Vede da dietro la casa di fronte delle fiammate viola arrampicarsi nel cielo, mentre sua zia gli si tuffa addosso trascinandolo con sé dentro il portone. Poi silenzio. Il podestà di Calvi Serrano Simoncelli salta sul letto a causa di quel rumore improvviso e violento. La prima parola che gli viene in mente è no. Inizia a vestirsi velocemente, indossa soltanto i pantaloni con la canottiera, mentre questo no dentro la terza gli rimbalza di continuo, al punto che quando scenderà di corsa diretto verso la caserma dei carabinieri, quel no diventerà un grido strozzato. Perché non farà in tempo Simoncelli a arrivare a destinazione. Si fermerà prima, esattamente davanti al muro, da dietro al quale Renzo ha visto le fiammate viola arrampicarsi nel cielo, e lì le vede. 12 persone a terra in un bagno di sangue. Le gambe non gli reggono a Simoncelli, al punto che inizia a barcollare portandosi le mani alla testa, all'interno della quale stanno ronzando decine di pensieri. Sta cercando il modo, Simoncelli, di fermare l'orologio e farlo correre all'indietro. Sta cercando il modo di far rivivere quelle 12 persone, magari gridandogli «Alzatevi, che i tedeschi se ne sono andati!» Ma non è possibile. E allora che fa Simoncelli? Inizia a correre, sì, ma non per tornare verso casa sua, no, per andare verso casa di Faustini, perché è lì che vuole andare. Perché stanotte, invece di 12 morti, ce ne scapperanno 14. Perché se non io lo ammazzo con le mani! Arriva davanti al portone di Faustini e è aperto. Sale le scale di corsa con la speranza di trovarseli davanti. Faustini Giunio e suo figlio Vittorio. Scappati da Calvi prima dei tedeschi. Quei tedeschi che sono passati nel paese uccidendo in tutto 16 persone come rappresaglia. Rappresaglia. Azione dannosa contro un nemico in risposta ad una sua precedente azione dannosa. Che azione dannosa avevano fatto questi? Caro Fei, Petto Rossi e Pierice, quelli uccisi il 12, contadini, lavoratori onesti. Guglielmi Adolfo, 48 anni, gestiva un albergo al centro del paese, lo chiamavano lo zoppetto a causa della sua andatura claudicante. Guglielmi Emilio, 44 anni, suo fratello. Guglielmi Igino, 33 anni, il terzo dei fratelli Guglielmi, insieme facevano dei piccoli trasporti con un camioncino a carburo. Guglielmi Ernesto, 17 anni, figlio di Emilio. Guglielmi Genesio, 16 anni, figlio di Adolfo, aiutavano i genitori nei loro lavori. Salvati Domenico, 29 anni, il medico del paese, quello studiato, come si dice da queste parti, per indicare le persone colte, sempre pronto a saltare giù dal letto a tutte le ore del giorno per una visita a domicilio. Montecarci Liberato, 59 anni, una persona dal sorriso eternamente stampato sulle labbra, una battuta ironica sempre pronta. Ranuzzi Mario. 19 anni, operaio di Greccio in provincia di Rieti, residente a Calvi temporaneamente per motivi di lavoro. I genitori avevano organizzato una grande festa quando era stato assunto, capirai, un lavoro nel 44. Lieto Antonio, 20 anni, Landeio Lindo, di cui non si conosce nemmeno l'età. Sono due forestieri e nessuno sa il motivo per cui stessero a Calvi. Probabilmente due soldati che dopo l'8 settembre se ne volevano ritornare a casa. Sernicola Ernesto, 42 anni, contadino di Santa Maria in Neve, una persona onesta, ingenua, semplice, al punto da incollarsi un prosciutto intero sulle spalle, con la speranza che donandolo ai tedeschi l'avrebbero rimandato a casa. E Fabri Fabrizio, anche lui 42enne, contadino di Santa Maria in Neve, un omone di 1,90 m per 100 kg di peso, forte e coraggioso come un leone, al punto che davanti ai tedeschi che stanno lì per sparargli non ha paura, ma li guarda così, in modo sprezzante, invitandoli quasi a sparare, mentre invece Guglielmo Emilio cerca di tranquillizzare suo figlio Ernesto, perché è normale che un ragazzino di 17 anni ha paura davanti a una mitragliatrice. Sernicola ha visto morire Caro Fei il giorno prima fra le sue braccia, è per questo che è disperato e prega e piange, mentre invece Ranuzzi maledice la sorte che l'ha mandato a Calvi a lavorare in questi giorni. Salvati Domenico è il medico del paese, è istruito, ma non è per questo che ha capito che cosa sta succedendo, quindi cerca di mantenere tutti tranquilli perché tanto non ne vale la pena. Mentre Montegaggi, liberato, il barbiere, crede ancora che ci sia un errore e cerca di spiegare le proprie ragioni. Guglielmi Adolfo si lamenta del dolore che quella gamba maledetta gli infligge, mentre suo figlio Genesio si tiene a malapena in equilibrio sul ciocco di legno che i tedeschi gli hanno messo sotto ai piedi per farlo essere alto uguale a tutti gli altri. E non capisce Genesio perché stia lì e perché suo zio Incino ce l'abbia così con suo padre e con un bicchiere di vino messo sul conto di Faustini. Stanno lì tutti quanti insieme davanti a un muro con le mani legate quel mattino d'aprile. Almeno fatemi mettere seduto, c'ho un dolore su sta gamba. E dove volete che scappi? Io faccio il barbiere, sto tutto il giorno al negozio, ma chi l'ha mai visti i partigiani? Te lo dicevo io che per bicchiere di vino a Faustini non glielo dovevi mettere in conto! Che avete da guardarmi in quel modo, eh? Venite a slegarmi se non avete il coraggio che vi faccio vedere io! Papà, ma dicevo glielo fare, io ho paura. Sta tranquillo, fra un'oretta ci mandano a casa e vedrai che tutto quanto sarà finito, dai! Che male sta gamba! Ma non è a Calvi, dove andrò al lavoro, ma guarda tu! Io faccio l'operaio, sono di Grecia, ho documenti in regola, ma che volete da me? Quando sta storia sarà finita, vieni da me in ambulatorio, ti do due pasticche e vedrai che per ora la gamba scompare. È finita qui, fammi la fine. De Caro Fei, è finita. Padre nostro, che stai dicendo? Io devo andare a casa, c'è mia figlia che non sta bene, devo andare a casa. Ma i vostri colleghi dell'aviazione, ma chiedete la loro, noi siamo amici, no? Lo so io chi è stato che mi ha denunciato, ci dovrebbe stare qui lui al posto mio, lui è suo padre! Due pasticche e durano la gamba scompare. Domani. E chi resiste fino a domani? Mi fa male. Almeno mi facessero sedere. Papà, ma perché mi hanno messo sto sciocco sotto i piedi? Te l'ho già detto, lo fanno soltanto per spaventarci. Tu però non piangere, va bene? Perché sennò diranno a tutti che siamo dei fifoni. E che ti crede di mettermi paura? Un bicchiere d'acqua, vi chiedo soltanto un bicchiere d'acqua. Sono 12 ore che non ci fate bere. Bicchiere di vino? Che ti costava prendere a Faustini? Quanto sei sciocco secondo te? Siamo finiti qui per un bicchiere di vino. Ma perché? Io faccio il barbiere, non ho mai fatto male a nessuno. Ma sì, ve lo posso dire pure io. Stiamo tutto quanto giorno a scherzare insieme al negozio. Glielo dico pure, te, dottore! Ho paura. Ernesto, non piangere. Così tempo. Papà, te l'ho già detto, lo fanno soltanto per spaventarci. Noi però non facciamogli vedere di avere paura, va bene? Paura? Di questi quattro straccioni. Papà, guarda quanto sono brutti. E sparano! Zitto! Qui nessuno spara a nessuno, va bene? E tu, Ernesto, non gli dà ascolto. Ascolta me, Ernesto, e non piangere, ascoltami. Ti prometto una cosa, Ernesto. Ti prometto che se non piangi domani, lo sai che cosa facciamo? Domani, prima mi chiami. Ascolta, Ernesto, ascolta tuo padre. Ti prometto, anzi, ti giuro, che se non piangi domani, prendiamo il camion e ti porto. Ernesto, hai visto? Era come ti dicevo io. Lo facevano soltanto per spaventarci. Ma noi siamo stati più forti di loro. Perché non ci sono riusciti. Lo spettacolo Quel mattino d'aprile, 13/4/1944, storia di una rappresaglia, di e con Germano Rubbi. Ben trovato! Grazie anche a te. Avevamo già ospitato al radioteatro questo tuo lavoro, lo riproponiamo ora in vista delle celebrazioni di aprile degli eccidi nazifascisti nel centro Italia. Raccontiamo queste vicende dello spettacolo. È uno spettacolo che ha a che fare, chiaramente sta già insito nel testo, con la storia di una grande azione tedesca che è avvenuta nel centro Italia tra fine marzo e i primi di aprile del 1944, dove a causa delle azioni continue dei partigiani, di sabotaggio nelle ferrovie, i tedeschi decidono di fare questa grande azione perché quello era il periodo in cui il fronte era fermo a Monte Cassino e quindi le vie alle spalle del fronte erano fondamentali per i trasporti e tutto il resto. E quindi i tedeschi mettono in azione una serie di rappresaglie in questa zona del centro Italia che era molto attiva da un punto di vista di operazioni partigiane. E si muovono proprio in questa maniera, facendo delle stragi in diverse località, anche perché la cosa interessante, storicamente parlando, è che in realtà di partigiani effettivamente uccisi in queste azioni ce ne sono veramente pochi e la maggior parte delle vittime erano vittime civili. E io ho voluto scrivere questo spettacolo proprio per raccontare la storia di una in particolare, di questi massacri che si ambienta a Calvi dell'Umbria, che è un paese che sta al confine tra la regione Umbria e quella del Lazio. Però io faccio un discorso concentrico, cioè a spirali, partendo dal contesto storico italiano generale di quel periodo, per poi stringere sull'Umbria e arrivare come una lente di ingrandimento proprio nella città di Calvi dell'Umbria, che può essere presa come una sorta di archetipo poi di quello che è successo in molte altre città italiane in quegli anni. Questa è un po' la struttura, l'impalcatura generale dello spettacolo e delle motivazioni che mi hanno spinto a scriverlo. Come ti sei mosso per la costruzione dello spettacolo? Su due direttrici diverse, molto spesso collimavano ma molto spesso si trovavano in alternanza, ovvero sia raccogliendo delle testimonianze dagli anziani, chiaramente, che secondo consultando i documenti ufficiali e in particolar modo alcuni scritti di storici e soprattutto gli archivi militari tedeschi della Wehrmacht di Friburgo, perché i tedeschi scrivevano veramente tutto quello che succedeva sia durante la Seconda Guerra Mondiale che nelle fasi di preparazione di questo tipo di operazioni. Tanto per capire di che cosa sto parlando, c'è un documento che riferisce di un'esercitazione fatta in una località non meglio identificata in cui un tenente si è preso una distorsione su una caviglia. Quindi questo per dire proprio come erano precisi i tedeschi sotto questo punto di vista. E quindi ecco, confrontando le memorie storiche delle persone, anche nello specifico un testimone oculare che ha visto proprio il momento della fucilazione, con i dati ufficiali è emerso questo tipo di racconto. Come dicevo all'inizio, molto spesso queste due tipologie di fonti non sono sempre in accordo fra di loro, un po' differiscono, però diciamo che in linea di massima, ecco, la costruzione degli avvenimenti è nata in questa maniera. Che percorso sta avendo a teatro questo tuo lavoro? Io ho scritto diversi lavori teatrali, non solo per me ma anche per altri artisti, anche nomi importanti. E devo dire che questo è quello che finora mi ha dato più soddisfazioni, perché è uno spettacolo che è stato costruito nel 2007. E dal 2007 ad oggi la prima replica è stata fatta ovviamente a Calvi dell'Umbria, in una piazza, lo ricordo ancora adesso come se fosse successo 5 minuti fa, dove c'erano circa 800 persone, cioè c'era praticamente tutto il paese a vedere questa cosa. E poi nel corso degli anni diciamo che è uno spettacolo che non è mai morto, cioè vista anche la particolarità del tema che affronta, quando è il periodo del 25 aprile molto spesso ci viene richiesto nelle varie amministrazioni che vogliono ricordare quei periodi, insomma. E quindi dal 2007 a oggi insomma, abbiamo avuto almeno una trentina di repliche in molte parti dell'Italia. Ci lasci tutti i tuoi riferimenti web per saperne di più? Mi trovate sia come magazziniartistici@gmail.it e Germano Rubbi con due B tutto attaccato @gmail.com. Magazzini Artistici sì, si trova, a mia personale comunque sono su Facebook e lì lo uso come canale anche di pubblicità dei lavori che faccio. Quel mattino d'aprile, 13 aprile 1944, storia di una rappresaglia. Un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Germano Rubbi. Alla prossima. Un saluto e un ringraziamento a te, è sempre un piacere sentirti. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. con l'autore, regista, attore Serafino Iorli per presentare il suo spettacolo Un bacio senza nome. Cronache di Battuage a Roma, Off-Off Theater, dal 13 al 15 aprile 2022. Ben trovato. Ci ritroviamo di nuovo insieme perché ti ho intervistato altre volte. Parliamone un po'. È nato 3 anni fa per questa storia del Covid. Nasce perché praticamente io, quando mi vedo con i miei amici, parlo sempre del mio passato, perché ho una certa età, ecco. E allora a un certo punto mi hanno cominciato a dire: ma perché non cominci a scrivere queste cose che ci racconti? Perché sono talmente divertenti. Infatti, il protagonista dello spettacolo è la Roma degli anni 70. Io nel 70 avevo 16 anni e già andavo in giro per Roma, facevo tardi la notte e racconto tutte le mie esperienze, i miei incontri, le esperienze sessuali, il battuage, perché prima si usciva in giro, non è che c'era Grindr, capito? E stavamo chiusi in casa con le chat. E racconto tutte queste storie, tutti gli incontri che ho avuto, che sono molto, anche molto ironici, ecco, divertenti, però si legano anche a un contesto sociale, che sono il terrorismo, che sono l'AIDS, il periodo del giubileo, che sono stati chiusi tutti i posti di battuage, e praticamente racconto tutte queste situazioni che adesso non ci sono più. Per esempio, no, per dirne una, il Circo Massimo era un bosco. Alla fine degli anni 70, pieno di alberi, di cespugli, e io come omosessuale frequentavo praticamente questi posti per conoscere altri gay e inciuciavamo pure in questi posti, ma soprattutto li frequentavamo proprio per incontrarci, perché non c'erano i locali gay. Negli anni 80 sono cominciati a nascere l'Alibi, l'Easy Going, altri locali come l'Incognito, e noi non avevamo dei posti per incontrarci e ci incontravamo all'aperto. Le associazioni, il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli è nato nell'83. Ma prima eravamo completamente isolati in una società eterosessuale che ci discriminava continuamente, e anche in questi posti di battuage purtroppo venivamo anche tante volte arrestati. Io ho passato anche delle notti dentro solo perché mi hanno incontrato alla stazione Termini. Non era facile la vita di un gay alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80. Poi piano piano ci siamo cominciati a confrontare, abbiamo capito che poi alla fine eravamo anche tanti, eravamo anche una forza, e sono cominciate a nascere delle associazioni per tutelare i nostri diritti, fino a che siamo riusciti addirittura nel 94 a organizzare un Pride che non ci aspettavamo neanche che veniva tutta questa gente. E piano piano ci siamo organizzati, ecco. E racconto tutta questa spensieratezza che c'avevo negli anni 70, perché ero giovane, c'avevo pure i capelli. C'avevo i capelli lunghi. Tutta questa spensieratezza, questa gioia di stare insieme. C'è una frase bellissima di Sandro Penna che dice: forse la giovinezza è questo perenne amare i sensi e non pentirsi. C'era proprio questa voglia di stare insieme. E poi parlo anche di campeggi gay, che a un certo punto nel 79 Felix Cossolo ha organizzato il primo campeggio gay, e lì per me è stata una scoperta pazzesca, perché mi sono trovato in Calabria, Isola Capo Rizzuto, era anche un campeggio nudista. Mi sono trovato una famiglia che non ho mai dimenticato. Facevamo i collettivi, stavamo insieme, io non ho mai avuto questa forma di solidarietà. I campeggi ne sono stati fatti 7, l'ultimo purtroppo nell'85 perché è scoppiata l'AIDS. Sì. L'abbiamo fatto in Calabria, a Rocca Imperiale. Quando siamo arrivati ci hanno preso sassate, hanno chiuso le strade cinesche dei negozi addirittura, e non potevamo uscire dal campeggio perché ci ammazzavano le botte, perché sui giornali uscivano titoli come la peste dei gay. Cioè l'AIDS praticamente era nata come una malattia degli omosessuali, che è una cosa assurda, eppure sui giornali c'era scritto la peste dei gay. E figurati, io poi ero ben riconoscibile. Poi dopo siamo andati, mi ricordo, a Taormina, ma hanno ammazzato le botte la sera. Come hai pensato la messa in scena? Ci sono anche dei video e ho trovato tanto materiale di repertorio. Sono andato al Circolo Culturale Mario Mieli e ho preso un sacco di notizie degli anni Ottanta. Se tu pensi che, per esempio, che ti posso dire, Donna Gatten diceva l'AIDS ce l'ha chi se la va a cercare, oppure il Cardinale Siri diceva l'AIDS è un castigo di Dio, e Piero Buscaroli di Alleanza Nazionale ripropose addirittura la riapertura dei campi di concentramento per omosessuali. Ti ho detto tutto, insomma. C'è tanto materiale di repertorio, ma l'ho voluto fare proprio perché la memoria storica è importante e dobbiamo portarla avanti, perché se ti adagi un attimo, all'improvviso magari tutti i diritti che sei riuscito a conquistare te li tolgono. Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più? Seguitemi su Facebook, Serafino Iorli, su Instagram, venite a vedermi, prenotate, se dite no omofobia alla cassa pagate solo 15 euro, perché il teatro è bellissimo, è un teatro a Via Giulia, meraviglioso, però si paga di più, insomma. Però c'è questa opportunità che possa avere queste riduzioni. Non è uno spettacolo rivolto all'omosessuale, perché si parla di amore, si parla di rapporti, si parla di solitudine. Io racconto la mia prima storia d'amore, è stato per me un problema grande per dirlo ai miei genitori, una difficoltà grande ad avere questa storia, perché lui non si accettava, non mi accettava, io non l'accettavo, non mi accettavo. Una persona come me che è nata negli anni 70 ha dovuto piano piano maturare anche una crescita, no? Personale. Lo spettacolo Un bacio senza nome, Cronache di Battuage a Roma, Off of Theater, dal 13 al 15 aprile. Un saluto e un ringraziamento all'autore, regista, attore Serafino Iorli. Ringrazio tantissimo Luisa Merloni, che mi ha fatto la regia, Federica Tuzzi, che ha collaborato ai testi, Lucia Pirozzi, che mi ha fatto i montaggi, le musiche, Francesca Bianchi e Ugo Sanchez. Nomino tutte queste persone perché veramente se non c'è tutta questa persona intorno che ti aiutano non puoi salire sul palco, veramente. Ringrazio pure a te che mi hai intervistato e mi hai dato l'opportunità di parlare dello spettacolo. Ciao! Con l'autore e attore Alessandro Blasioli per presentare lo spettacolo Questa è casa mia, L'Aquila ieri e oggi, a Roma al Teatro Vittoria dal 5 al 13 aprile 2022. Ben trovato! Ciao Federico, ben trovato! Ciao! Per chi non conoscesse la storia che abbiamo ospitato qualche anno fa al Radio Teatro, come la descriveresti? È la storia di un'amicizia, quella tra Paolo e Marco, che si ritrova ad essere vissuta durante il periodo del sisma. Quindi una storia che è caratterizzata da questo sfondo costante e continuo che è il dopo terremoto, quindi non già il terremoto in sé, ma la gestione dello stesso da parte dello Stato e di tutte, diciamo, le cose che non sono andate a buon fine. Ecco, attraverso gli occhi però di questi due giovani ragazzi che si vivono appunto questa loro amicizia all'indomani del terremoto dell'Aquila. Come era nato lo spunto e poi come hai costruito lo spettacolo? Come l'hai strutturato? Si parte da una base abbastanza presente che mi riguarda in prima persona. Io sono teatino di Chieti e la storia si basa sull'amicizia e su che ho tuttora con un ragazzo dell'Aquila. E se vogliamo andare a ritrovare il punto esatto nello spettacolo è quando nell'estate del 2009 l'amico si rende conto di vedere negli occhi del proprio fraterno compagno uno scoramento, una persona veramente scoraggiata che non sa più a che cosa appigliarsi, purtroppo, chiaramente. E quindi la necessità di raccontare come sono andate veramente le cose, anche all'indomani di tutto, di questi anni che sono passati e di tutte le varie scoperte, dei vari magheggi che sono stati effettuati, diciamo così, attraverso la spiegazione del fatto che lo vivono i ragazzi e proprio in quel momento, in quel periodo, quando stanno per le disgrazie che sono arrivate dopo il sisma dell'Aquila, ho voluto raccontare per portare la verità, perché troppo spesso ci si dimentica che siano andate veramente le cose. Poi una news tira l'altra, quindi inevitabilmente non si va più a parlare di determinate vicende, e volevo invece mantenere alta l'attenzione perché il problema che ha caratterizzato l'Aquila, appunto la gestione del post-sisma, è in realtà un problema che, come abbiamo purtroppo visto, si ripete costantemente ogni qualvolta ci sta un brutto evento come questo del terremoto, come è stato per il terremoto del centro Italia nel 2016, quello di Amatrice. Amatrice tutt'oggi aspetta una ricostruzione e purtroppo però sappiamo bene, basta vedere l'Aquila a 13 anni dal sisma, perché lo spettacolo andrà in scena proprio in questi giorni, basta vedere l'Aquila e ci si può facilmente rendere conto che in realtà c'è bisogno di veramente tanto tempo. Per cui lo spettacolo nasce dalla necessità di chiedere prevenzione, cioè prevenire per quanto possibile i danni che un terremoto possa causare in uno stato fra i più ad elevato rischio sismico in Europa, che ovviamente è bellissimo, abbiamo architetture fantastiche, fenomenali, che però devono essere aggiornate a quelli che sono i nuovi dispositivi antisismici, se vogliamo pensare di non piangere più persone. Ecco. Come l'ho strutturato? L'ho strutturato partendo appunto da una base di realtà, per poi ovviamente andare a romanzare in determinati punti dove avevo necessità di far convogliare tutta la vicenda. Ecco. Visto che comunque si parla di dopo terremoto ed è già qualche anno che lo porti in scena, si è modificato nel frattempo? Hai aggiunto o modificato cose? Nel frattempo si sono aggiunte alcune informazioni, perché ovviamente a mano che vanno avanti, dopo che le persone sono state portate a giudizio, insomma, si prosegue nella lotta, nella ricerca della verità, vengono fuori determinate giustizie, determinate ingiustizie, quindi sì, quelle ovviamente sono state inserite. Diciamo che lo spettacolo assume di anno in anno più consapevolezza, forse più che lo spettacolo io, attore e autore e regista, e quindi inevitabilmente va a plasmarsi anche in base a quella che è stata la risposta, devo dire sempre positiva, quindi la cosa mi scalda il cuore, del pubblico. Quindi anche molto banalmente determinati momenti dello spettacolo affrontati in un modo piuttosto che in un altro, perché effettivamente senti che la risposta del pubblico è più presente. Quindi magari da un punto di vista più professionale, ecco, ci sono stati dei cambiamenti. Lo spettacolo, grosso modo, è rimasto lo stesso, perché era nato alla luce di determinati appunto risultati nei tribunali, determinate persone sono state prescritte, non facciamo nomi, li faccio nello spettacolo tanto, quindi a un certo punto nel 2016 è parso che non fosse colpa di nessuno. Nonostante gli aquilani fossero stati tranquillizzati e gli fosse stato detto loro di tornare a casa e di dormire, che tutte quelle scosse in realtà stavano scaricando la terra anziché essere segno premonitore, insomma, di tutta quella vicenda alla fine credo sia andato in carcere una persona. Quindi anche alla luce di quelle nuove scoperte io avevo strutturato lo spettacolo e creato lo spettacolo proprio per parlare di quel momento e per dare, diciamo, un punto di vista anche diverso, perché poi è stato costruito appunto anche e soprattutto grazie al vissuto dei miei amici. Cioè, per quanto riguarda la parte autobiografica, io sono uno di quei ragazzi che l'estate andava a Silvi Marina a godersi l'estate, quindi ho visto gli aquilani ospiti nelle strutture alberghiere e poi tramite l'amicizia dei compagni aquilani ho seguito lo sviluppo del progetto case e sentivo le loro domande, si domandavano anche loro perché provvisorie se poi comunque hanno un piastrone in cemento armato sotto, che quindi tutto fa sembrare meno che siano provvisorie, come mai si sta operando in un modo piuttosto che in un altro? Quindi ho preso quelle domande e le ho riportate praticamente nello spettacolo, cercando di rendere giustizia a tutti. Ecco. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più sul tuo lavoro? Su Facebook mi trovate come blasioli.actor, su Instagram il_basso_, quindi il Blasio, il_Blasio, e ho pure un sito alessandroblasioli.com, e per il resto tutte le informazioni comunque sono sul sito del Teatro Vittoria. Io vi aspetto dal 5 al 13 aprile, tra l'altro sono delle date molto importanti per me, perché ricadono nei giorni dell'anniversario del sisma e delle varie vicende che racconto nello spettacolo. Quindi nel mio piccolo sento e spero di fare qualche cosa di importante, di bello, di giusto, sempre per tenere un po' alta l'attenzione in questo marasma di informazioni, in questo mondo che un po' va allo sfacelo, cercare comunque di fare dell'ironia e di riflettere al contempo. Questa è casa mia, L'Aquila ieri e oggi, a Roma, al Teatro Vittoria, dal 5 al 13 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Alessandro Blasioli. A presto! A presto, grazie Federico, ciao a tutti! Con con Emma Campili, drammaturga e regista, che insieme a Donatella Curino ha scritto il libro Il Social Writing, il racconto ai tempi dei social network. Ben trovata. Buongiorno Federico, ben trovato tu. Purtroppo sono sola perché Donatella è dal dentista, sarebbe dovuta uscire ma non è ancora uscita, quindi parlo io. Puoi darmi del voi, diciamo. Parlo per entrambe, mettiamola così. Ce ne parli? Diciamo che questo libro è stato un punto di arrivo di un percorso che io e Donatella stiamo facendo ormai da 6-7 anni. Quindi è il punto culminante di un processo, quindi non è un libro teorico, è un libro pratico, possiamo così dire. È da 5-6 anni che noi abbiamo intravisto nei social network una vera e propria struttura letteraria, a prescindere dal contesto social, quindi dello sharing, della condivisione, ma proprio dell'organizzazione della struttura del racconto. E da lì abbiamo iniziato a fare un lavoro in questo senso drammaturgico e ci siamo chieste cosa potrebbe succedere se il personaggio si facesse persona in un tempo in cui invece all'inverso la persona cede al personaggio, ed è così è nata poi l'idea di strutturare tutto questo percorso appunto nel libro, che è a metà tra un saggio e un manuale, perché sia Donatella che io abbiamo un po' di difficoltà a definirci in un genere, perché questa poi è un po' l'epoca dei generi. La prima parte è appunto a un approccio saggistico-filosofico proprio ai social network guardati come una vera e propria struttura letteraria, una struttura epica. Quindi noi cerchiamo di rintracciare nei social network, in particolare Facebook ed Instagram, quelle che sono, tra virgolette, le regole alla base della scrittura, soprattutto per il cinema e per il teatro, quindi di sceneggiatura e drammaturgia. Nella seconda fase del libro diventa più l'aspetto del manuale e lì spieghiamo appunto come poter creare quella che noi definiamo la social serie, dove portiamo vari esempi da testi sia teatrali che cinematografici che letterari. Nello specifico per il cinema abbiamo scelto, questo devo dire, soprattutto Donatella, Eva contro Eva; per il teatro Filomena Marturano, di cui noi abbiamo girato anche una serie, poi purtroppo per motivi che non sono più a spiegare è rimasta solo una puntata su YouTube, e Menzogna e Sortileggio di Elsa Morasse, dove il personaggio esce dalla storia e la racconta, quindi l'azione si fa di nuovo parola. È come se noi rintracciassimo un discorso quasi aedico, dove la storia è il personaggio si assume quindi questo racconto e prende in prestito il linguaggio che usiamo noi oggi, sia proprio nel condividere ciò che accade nella nostra vita che rispetto alla fruizione dell'avvenimento. L'avete praticata anche scrivendo quest'idea? Sì, già noi iniziamo però non proprio in questa maniera spinta, quindi avevamo iniziato ad avere l'intuizione con un Amleto che abbiamo fatto, che c'è sia in versione integrale che a puntate, ma l'esperimento vero e proprio l'abbiamo fatto appunto con Filomena Marturano, dove Filomena insieme con Rosalia, Alfredo e Lucia, quindi senza la figura di Domenico Soriano, racconta a camera come se fosse una youtuber la sua storia. In questo caso le parole di Edoardo non vengono assolutamente tradite né modificate, cosa che solitamente avviene con il adattamento, ma quello che succede è appunto che Filomena racconta, che poi è quello che succede nella vita. Quindi il personaggio, perciò dicevo prima, parla a noi come noi parliamo a noi stessi, nel senso tu nella vita comune non spii un tuo amico, quindi è raro che tu sei presente nel momento magari in cui un tuo amico si innamora o ha un momento di crisi o un litigio, magari dopo te lo racconta. Questo è il rovescio, quindi questa è l'intuizione nuova drammaturgica. Quindi il personaggio vive delle situazioni, ma noi non lo vediamo mentre le vive, ma lui ce le racconta, che poi è quello che succede con gli youtuber. Quindi sì, lo abbiamo fatto. Infatti, ti dicevo, noi prima lo abbiamo fatto e poi l'abbiamo scritto, perché noi di solito partiamo dalla pratica e poi lo abbiamo teorizzato solo dopo averlo fatto, e ti dico, abbiamo avuto anche un ottimo riscontro. Ci dai dei riferimenti web per saperne di più, per l'appunto? La nostra pagina stasera c'è il spettacolo, che su Facebook, e poi c'è il canale YouTube dove ci sono tutti i nostri lavori, Il libro La Social Writing, il racconto ai tempi dei social network. Un saluto e un ringraziamento alla drammaturga e regista Emma Campili, che lo ha scritto insieme a Donatella Furino. A presto! Ciao Federico, grazie. Con Maurizio Tonali, autore del libro Roma 1849, l'alba della nazione. Ben trovato. Grazie. Come lo presenteresti questo lavoro? Come un atto d'amore verso i nostri progenitori che ci hanno consegnato la nazione in cui stiamo vivendo adesso, con dei sacrifici, con delle idealità eccezionali che dovremmo ogni tanto recuperare. Mi porto sempre dietro quanto afferma Ugo Fuscolo nei suoi sepolcri, no? Ai gregge cose il forte animo accendono l'urna dei forti. Quando Fuscolo scrive i sepolcri si sta formando appena la nostra idea di nazione, e consideriamo che Napoleone, non volendo, ha cominciato a creare il sentimento nazionale negli italiani, perché ha cominciato a costituire dei gruppi, dei reggimenti fatti soltanto da italiani che parlavano quindi la lingua italiana e per la prima volta vanno in guerra portando il tricolore. Quindi anche non volendo, perché certo Napoleone non aveva nessuna idea di creare una nazione italiana, però è chiaro che queste idee cominciano ad attecchire e cominciano a proliferare. Non è un caso che tutti i primi patrioti all'inizio del 1800 vengano tutti dalle file dell'ex ufficialità napoleonica, ecco. Come è nata l'idea di questo lavoro? Intanto un velo di tristezza per vedere come sono trascurate le nostre memorie, e vada bene che io non porto dietro un nazionalismo becero che non mi compete, non mi interessa, però tutti questi atti che hanno preceduto la nascita della nostra Repubblica Italiana sono stati dei fatti eccezionali che andrebbero conosciuti in modo approfondito, perché poi ti danno un senso di rispetto e di amore verso quelli che si sono sacrificati prima di te per consegnarti questo Stato. Ti faccio un esempio. Mio padre ha fatto la Seconda Guerra Mondiale e l'hanno mandato a combattere nei fronti peggiori, Russia, Grecia, eccetera. Dopo l'8 settembre fu preso prigioniero e si è fatto un anno di lager tedesco, perché naturalmente lui non ha voluto aderire, e quindi è rimasto lì con altri 500.000 italiani. E quando lui è tornato in pessime condizioni e mi raccontava queste cose, ecco, io ripenso con ammirazione alle cose che ha dovuto sopportare, anche un senso di orgoglio, no? Per avere avuto un padre coerente, leale. Ecco, questi insegnamenti rimangono poi, no? Per questo io cerco a ritroso di andare a prendere queste vicende, perché sono il nostro patrimonio e sono stati degli atti di valore emozionanti che dovremmo recuperare. Oggi, soprattutto rispetto al Risorgimento, si va affermando una dimenticanza tragica per conto mio. Ecco, dovremmo recuperare un po' di memoria, perché fa bene. Come lo hai strutturato il libro? È un percorso che va da quando il Papa se ne va da Roma e viene instaurata la Repubblica, è un percorso cronologico che segue i fatti giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, e diciamo che il racconto viene da solo, ecco. Quali sono per te gli elementi più rilevanti di questa pagina? Noi dovremmo andare orgogliosi di questo periodo. Oggi c'è un revisionismo storico molto sciatto, per cui vengono rimesse in discussione cose che sembravano acquisite. Oggi c'è una corrente revisionista, soprattutto neoborbonica, che cerca di screditare il Risorgimento. Io capisco qual è stato l'input che ha provocato questo, perché negli anni 90, quando è nata la Lega di Bossi, il Meridione era bersaglio di epiteti molto forti, e quindi capisco pure che nell'animo dei meridionali poi ci sia stata la voglia di rivalersi. Però poi forse si è andato un po' troppo oltre, si è cominciato a criticare tutto senza lasciare più nessuno spiraglio. Ecco, cerco di recuperare quella che è stata la vera memoria, l'autentica memoria. Vedere come proprio gli stessi romani hanno trascurato questa memoria mi ha spinto a cercare di metterla per iscritto, ecco, di farla durare il più possibile. Credo che due siano i lasciti più importanti di quell'esperienza della Repubblica Romana. Il primo è il grande esempio di internazionalismo, giovani accorsi da tutto il mondo a difesa di una Repubblica popolare. E poi una Costituzione che è alla base dell'attuale nostra Costituzione, ma che ha fatto scuola in tutto il mondo. Sì, esatto. Allora, per quanto riguarda la prima parte, questa dell'internazionalismo, è un filone bello che poi si è perpetuato nella storia. Mi vengono in mente le brigate internazionali di Spagna, no? Questo accorrere di tutti questi spiriti liberi, libertari, laddove la democrazia viene messa in pericolo, ecco. E qui abbiamo anticipato anche noi, perché per esempio se tu vai sulla via Flaminia, altezza di Piazzale delle Belle Arti, c'è una stele in mezzo a un giardino, che è una stele dedicata a cittadini polacchi che hanno combattuto lì in quel punto e che sono morti. C'erano tanti polacchi, c'erano tanti americani, c'erano tanti di tutta l'Europa, anche perché ricordiamo che a Roma c'era una grande colonia di artisti, perché a Roma si veniva per il Grand Tour, ma tanti si stabilivano qui perché era piena di artisti Roma, con tutte le sue memorie storiche, attirava molto. E tutti questi artisti, che possiamo calcolare più di un migliaio di persone, sono andati tutti a combattere per la Repubblica e alcuni hanno lasciato anche le loro memorie, molto belle, molto indicative, ecco. E poi un'altra cosa importante è che per la prima volta vengono attirati giornalisti da tutto il mondo, possiamo dire che nasce il giornalismo, i reporter di guerra, ecco. Naturalmente tutti hanno una grandissima simpatia per i romani che sono attaccati, no? L'eterna vicenda di Davide e Golia. Qui abbiamo il Golia francese enorme con un esercito strapitante che vuole schiacciare il piccolo David. Quindi, come sempre, nella guerra tra il più debole e il più forte arriva tanta gente a sostenere il debole. E questa è stata una cosa bellissima, perché poi questi giornalisti hanno riportato e propagandato i valori della Repubblica, soprattutto in tutto il mondo. Ho letto qualche tempo fa un libro di una scrittrice inglese che si chiama Vera Brittain, che ha scritto Generazione Perduta, una scrittrice inglese molto famosa, anche una poetessa. E lei ha scritto un libro autobiografico sulla sua vicenda. Lei è stata crocerossina durante la Prima Guerra Mondiale e in quella guerra ha perso il fidanzato, il fratello, due intimi amici, insomma tante persone care. E prima di andare in Francia a svolgere il suo servizio da crocerossina, la sua insegnante di lettere gli fa un regalo, un libro scritto da uno storico inglese molto importante che si chiama Trevelyan. Questo libro è Garibaldi e la difesa della Repubblica Romana. Mi sono venuti veramente i brividi a pensare che viene regalato un libro del genere a una persona che sta per partire. La tua ricerca a che fonti ha attinto? Le fonti sono di due tipi, bibliografiche, nel senso che si va a vedere quando è stato scritto prima. Ci sono per esempio tanti autori dell'Ottocento che hanno raccontato questa guerra in presa diretta quasi, no? Proprio mentre accadevano i fatti. Uno di questi è proprio questo Trevelyan di cui ho parlato poco fa. Quindi c'è una grande quantità di libri che sono stati scritti e poi le fonti documentarie. Io nella mia vita ho lavorato molto con le fonti documentarie perché dirigevo un ufficio della Regione Lazio, dell'assessorato alla cultura, che si occupava proprio di archivi, di biblioteche, di ricerche storiche e quant'altro. Quindi ho una grande dimestichezza con i documenti. Per esempio, un luogo dove c'è una gran quantità di documenti da consultare è la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, che sta via Caetani, dove è possibile andare a trovare lettere, bandi, avvisi relativamente a questo periodo in una quantità enorme. Quindi anche la ricerca su queste fonti è stata importantissima, perché ti dà le cose in presa diretta, no? Quando per esempio viene proclamata la Repubblica il giorno 9 febbraio del 1849, ci stanno subito i volantini che vengono distribuiti alla popolazione, dove si esalta questo momento enorme, una Repubblica che è nata dalla volontà popolare. Questa è la prima volta che succede nella storia, non solo italiana. Pensate, abbiamo un'assemblea costituente, una Costituzione che è il risultato diretto della volontà popolare. Perché le elezioni che furono fatte il 20 gennaio del 1849 sono elezioni a suffragio diretto e per la prima volta i membri di un'assemblea sono votati direttamente dal popolo, cioè non era mai accaduto prima, quindi questo è un fatto enorme, no? Il libro Roma 1849, L'alba della nazione, un saluto e un ringraziamento all'autore Maurizio Tonali. A presto! Grazie, grazie, arrivederci. Siamo all'agenda della settimana per quanto riguarda il teatro e gli eventi culturali. Con noi Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone, a te. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ed io mi rivolgo immediatamente alla scena, andiamo subito in teatro, via, andiamoci, perché c'è da ricordare un po' di cose. Partiamo dal Teatro Tor Bella Monaca, perché si parte questa sera al Teatro Tor Bella Monaca. Questa settimana avrà ben tre spettacoli. Il primo sarà oggi e domani, 12 e 13, Alice Sgroia e Giovanni Arezzo, che anche la regia, presentano questo Girasoli, un monologo post mortem di Sara M, che è un'attrice di teatro che distrutta dalla solitudine e dalla mancanza d'amore si uccide, e noi insomma in qualche modo ascoltiamo i suoi ricordi post mortem, i suoi racconti del dopo, della Sara non morta, in un non luogo che è definito solo dallo scorrere del tempo. Quindi ecco, una storia dall'aldilà, quella di Alice Sgroia e Giovanni Arezzo, 12 e 13 aprile al Teatro Tor Bella Monaca. Segue uno spettacolo di teatro segreto che si chiama I fiori del nuovo mondo. Ludovico Buldini è alla regia, alla drammaturgia, anche in scena con altri due attori di questo lavoro. Pasternak e Jeno aspettano una barca in un porto desolato, all'orizzonte una tempesta, un vecchio gli annuncia che il diluvio universale sta sommergendo la terra, solo se lo seguiranno nella sua iniziazione potranno salvarsi e accedere al nuovo mondo. Quindi un lavoro fantastico, quello di Ludovico Buldini, che dal 14 al 16 di aprile va insomma a cercare il nuovo mondo attraverso il diluvio universale, proprio con I fiori del nuovo mondo al Teatro Tor Bella Monaca. 14-16 aprile anche per un lavoro interessante, Fit Theater Company, che come dice il nome della compagnia, ammesso che l'abbia pronunciato decentemente, Monsieur David e Federica Gumina, credo l'accento sia sulla I, presentano La danza dei piedi. Questo spettacolo è un spettacolo comico di figura che attraverso la leggerezza compie un viaggio adatto un po' a tutte le età, appunto il teatro fatto con i piedi, ma proprio tecnicamente, perché insomma c'è un po' di clownerie, un po' di teatro di figura, di mimo, e insomma è divertente poter andare a vedere, un po' portando anche magari i bambini, insomma un po' per tutte le età. Teatro Tor Bella Monaca dal 14 al 16 aprile. Mentre invece al Teatro Quirino andremo a vedere uno spettacolo dal 12, quindi da questa sera, fino al 17, con la regia di Giappi Gleieses, ed è Processo a Gesù, uno dei testi italiani più importanti, più rappresentati del secondo Novecento, quello di Diego Fabbri, che appunto porta sul banco degli imputati in qualche modo Gesù, ma è una riflessione sulla figura del Cristo oggi, che porta lo spettatore, che sia ateo o credente, a interrogarsi, no? Sul proprio rapporto con la religiosità, con se stesso, con il rapporto con l'anima, con lo spirito. In scena tra gli attori c'è anche un attore straordinario come Marco Cavalcoli, quindi Teatro Quirino dal 12 al 17 aprile per Processo a Gesù. Al Teatro Vascello invece per qualche giorno, 12-15 aprile, andremo a vedere Error Materia, che è uno studio dalle avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, con quattro registi, drammaturghi, attori che sono usciti dall'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, e sono precisamente Evelina Rosselli, Caterina Rossi, Michele Eburnea e Diego Parlanti. Si firma il gruppo Uror, e insomma è un inedito che prende spunto dalla favola di Pinocchio e viene riformulata l'opera a partire dalla nascita del burattino fino alla morte, dove c'è una messa in scena che cerca di esplorare linguaggi diversi che si mescolano l'uno con l'altro, sia quello verbale che quello fisico, sonoro, musicale. Insomma, l'idea è quella di spostare Collodi dalla sua narrazione più standardizzata e portarlo in altri linguaggi. Questo è piuttosto interessante. 12-15 aprile, Error Materia al Teatro Vascello. Poi al teatro, all'altrove, Teatro Studio, 15 e 16 aprile, andremo a vedere una regia di Paola Carrara, Vedrai che cambierà, diario di una cantautrice, un verso di Luigi Tenco, qui parla di Battiato, Gabber e canzoni inedite di Laura Raimondi, però insomma Vedrai che cambierà è il Vedrai vedrai di Luigi Tenco, molto breve, in compagnia della musica, per raccontare anche con ironia il viaggio che si può intraprendere soprattutto appunto attraverso le note dei grandi cantautori anche della musica nuova e dipendente, perché no, insomma. Quindi Altrove Teatro Studio, vedrai che cambierà, Diario di una cantautrice, 15 e 16 aprile. Al Teatro Le Maschere c'è uno spettacolo per bambini che si chiama Little Rainbow Riding Hood, precisamente in doppia lingua, inglese e italiano, scritto e diretto da Natalia Cavalleri, con le musiche di Alessandro Cercato. Lo spettacolo è dedicato ai bambini e prende il nome di Spiade e Biscottini. Ecco, praticamente la sezione, scusa, prende il nome della sezione che si chiama Fiabe e Biscottini. Questo è quello che noi vogliamo dare. Carino, divertente. Teatro dei Servi, Laura De Marchi con Seduta, che è uno spettacolo accessibile ai sordi, cosa interessante perché sono due attrici LIS, regia di Giorgia Filanti, e il tema è quello della ricerca della felicità. Non vanno più di moda i personaggi, che bisogna fare la stand-up comedy, bisogna raccontarsi senza maschera, in prima persona, con un microfono in mano e rigorosamente in piedi. Però ecco, effettivamente l'attrice magari aveva voglia di stare seduta, o almeno fare una seduta con il pubblico. 12 aprile, questa sera, alle ore 20, Teatro dei Servi. Per quanto riguarda invece il Teatro Basilica, ecco, questo è molto interessante, perché Galatea Ranzi, attrice importante, di cui insomma mi fa piacere ricordare il lungo e prezioso cammino, presenta uno spettacolo alla regia di Gianluca Barbadori, ovvero sia Il nome della madre, dal testo di Henry De Luca, e lo spettacolo sarà in scena oggi e domani, 12 e 13 aprile, al Teatro Basilica. Ancora al teatro che non, come Doff, in prima assoluta, attenzione, la regia di Luca Gaeta, il testo di Luca Leone, e lo spettacolo si chiama Perché io ho vinto, dal 12 al 14 di aprile. È un monologo tratto dal libro di Luca Leone, Dio si è creato l'odio, la morte e l'oblio, edito da Infinito Edizioni, e l'attrice Nela Lucic mette in scena la vera storia di Bakira Ashecic. Vabbè, questo è proprio difficile, ci sono delle consonanti che si ignorano in più di una lingua indoeuropea, e tutto sommato però è la storia di una vittima di violenza durante il genocidio che si è consumato in Bosnia e Erzegovina durante la guerra degli anni 90, e assieme allo spettacolo ci sarà insieme l'esposizione fotografica I gigli della Bosnia, della fotografa Tina Tripodo, nata durante il set fotografico relativo al progetto teatrale, insomma la... L'esposizione sarà legata chiaramente al progetto teatrale. Quindi questo, al teatro come dopo, mi sembra interessante, se ne parla sempre così poco in teatro di questo argomento, della storia così nuovo e così ormai antico in realtà, perché parliamo di 30 anni buoni. Ultime cose da ricordare riguardano entrambi il teatro di Roma, l'avevamo già menzionato all'arrivo a Roma, al Teatro India di Laribo, questo ensemble che viene dalla Svizzera e porta la danza a Roma con il 12 aprile, che è oggi alle ore 19, pièce distinguée numero 45, una performance presso l'Istituto Svizzero, e poi alle 20 ci sarà il screening film noir a seguire, insomma, proprio dall'Istituto Svizzero. 12, 13 e 14 lo spettacolo, alle ore 19 sarà l'Istituto Svizzero, benissimo la performance, mentre invece la performance Gustavia, che sarà al Teatro India, sarà domani e dopodomani, mercoledì e giovedì. Questo stiamo parlando insomma della coreografa spagnola Laribo, che ha vinto il Leone d'Oro alla Biennale Danza 2020 e che quindi porta questo programma al Teatro India, cercando un po' di raccontare l'intero percorso dei propri ultimi lavori. La pièce distinguée è un'azione unica con una morte annunciata, dove l'atto d'amore, desiderio di morte e gesto pittorico si fondono. Gustavia invece è una performance creata e interpretata con Mathilde Monnier, che assume i tratti del burlesque in una critica alla pretesa che le donne recitino sempre il proprio genere a teatro come nella vita. Quindi ecco, un'attitudine critica quella di Laribo, che presenta al Teatro India e all'Istituto Svizzero i suoi lavori questa settimana. Ultimissima nota è quella che riguarda forse il debutto, sicuramente il debutto della settimana, ovvero sia la prima nazionale a Roma di Thiago Rodriguez, che ieri sera in realtà ha debuttato, ne abbiamo infatti già fatto menzione, fino al 14 aprile alle ore 20, Teatro Argentina, Catarina e Abelesa de Matar Fascistas, cioè Catarina e la bellezza di uccidere fascisti. Questo è lo spettacolo in portoghese, anche se non si evinceva dalla mia pronuncia, poteva essere qualunque lingua, con sovratitoli in italiano, spettacolo del regista Thiago Rodriguez. È una coproduzione firmata dal suo Teatro Nacional Dona Maria II di Lisbona e dal Festival d'Avignon. È una drammaturgia che ha sicuramente una forte vocazione politica, aperta al coinvolgimento dello spettatore. Catarina racconta il rito di una famiglia che da oltre 60 anni si tramanda la missione di uccidere un fascista, quindi in qualche modo quasi ironico, no? Surreale l'impianto che cerca di parlare di questa piaga del Novecento e oltre, che è stata e purtroppo è il fascismo, ogni fascismo. Lo andiamo a vedere con Thiago Rodriguez, per appunto uno che se ne intende per il fatto di essere portoghese. Il Portogallo è stata l'ultima dittatura europea a cadere nel Novecento, salvo le dittature recenti, ma questa è altra storia. Andiamo al Teatro Argentina fino al 14 aprile alle ore 20 per Caterina e Abelessa de Matar Fascistas. Ciao! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.